E allora ne avevo comprato un altro, sempre in perfetto stato, col suo microfono originale. Toccai molto bene. Io avevo capito, scusa qua. Pensavo che stessi usando il Constant 35B che aveva lo Smitter, io mi riferivo allo Smitter verde, poi chiaramente toccare, lo sappiamo così, ce l'ho qui davanti. Va bene, dai, riprendete pure, ciao, buonanotte a tutti e due. Ce l'ho anche quello, ce l'ho, tante volte l'abbiamo, l'ho messo in funzione, abbiamo fatto un questo con quello, il 35, il Constant 35, e qua. È bello questo, con quella che lucia, è vero, qui c'è lo Smitter con una parte verde e l'altra rossa e rosa. E va bene, allora con questo pisilio della notte, giù, buonanotte, a domani. Ok, buonanotte, ciao Marco, ciao Claudio. Ciao Giulio, buonanotte. Non ce l'ho arrivato, e con i veicolari io non è che sono molto preparato in materia, lo sai Marco, a me piacciono le cose. Anche a me, però questo è un rifugio, infatti, che ho qua, ma gli altri sono tutti bassi. Quello che stavo usando prima invece era un Realistic stasera, adesso mi sa che accendo un SBE, vediamo un po', tanto c'ho tutto pronto qua, aspetta che accendo un SBE, intanto tu guarda se c'è qualche fuga di potenza da qualche parte. Sto controllando, un occhio sul barometro, non lo so, ma scalda parecchio. No, sta girando la vetta sta girando. È anche abbastanza silenziosa perché ho messo l'orecchio, ma scalda. E poi l'amperometro, minchia. Adesso sono 15 ampere, 15, 18, Capri, buonasera, Marco Scorpion dalle alture di Figheddu, dalle alture della città di Sassari, la parte opposta a quella di Claudio, l'uomo del monte, allora. funziona, insomma fa piacere che abbia, che prosegua l'attività paterna. Allora adesso ho attaccato un SBE console 2, guarda, ti dico, perfetto, con il microfono adattato al suo SBE, tra l'altro non so se sto uscendo amplificato oppure no, se basso o meno, poi mi dirai un po' come arrivo lì dalle tue parti. L'antenna qua è una 827, mi pare di ricordare, comunque quella nuova della Siri, un po' con la classica forma da 5 ottavi, tipo Mantova, con i radiali, con tanti radiali in alluminio per il piano di terra e con il dischetto di plastica per evitare l'antispifero, ma è per cercare di rinforzarlo. Che è vero che comunque funziona abbastanza bene, ce l'ho già da un po' di tempo. Avevo sostituito la Mantova, che ormai era veramente, aveva fatto il suo percorso. Va bene, dimmi un po' se è presente che modello si tratta, quello che ha l'altoparlante laterale con il frontale un po' alluminio, ma più che alluminio direi un po' leggermente beige rosato come colore, molto bello, e che ha le bande laterali, ma è 23 canali. A te Gianni. QSL già, belle cose, a me lo sai che negli anni passati ne ho comprato un bel po' di queste cose vecchie, vecchie, vintage, e di questi base ne ho, come sai, ne ho un bel po'. Devo dire fra l'altro che non tengo cose che non funzionano, cose che, ma insomma, magari non so se qualcuno nel tempo si sarà incasinato, come sapete sono scaricati, però quando li ho acquistati erano tutti a posto, anzi qualcuno l'avevo addirittura fatto revisionare. E vabbè, qui adesso diciamo che qui nello sciacco diverse postazioni, qua diciamo una postazione dove normalmente faccio lavoro di saldatura, cose varie eccetera, ne ho 8 a portata di mano, insomma, per poter collegare subito e attaccare, e questo mi piace, è uno di quelli che insomma che diciamo tra i miei prediletti, esteticamente anche un po' mi piaceva sin da ragazzo. Va bene, passiamo a Claudio, vediamo se ha trovato il problema e così poi magari mi dice Claudio se di modulazione ci siamo o se ha bisogno di essere aumentato. Claudio non riprende, magari è impegnato a scollegare qualcosa. Mi dicevi Gianni, la modulazione va bene oppure da regolare? piacere, vediamo se Claudio può riprendere. Sì, continuate, vi sto ascoltando, io sto, cioè, la situazione sotto controllo qua, perché questo assorbimento che ho non mi convince molto, capito? Cioè, ho 10 watt, 15 watt con picchi di 40-50, però non sono convinto di questo assorbimento. Guarda un po' dov'è la situazione. Non è che quello più là in sotto si è attaccato all'alimentatore e si sta succhiando la corrente, no? Con i ganci. Io ho 60 ampere più altre 60 quello della Raimond, sono 120 ampere. No, ma rispetto al 140 mi sta assorbendo molto, molto di più. Io stavo usando 140, adesso sto usando 430 e non capisco perché stia assorbendo così tanto, non lo so. Certo che è tanto, Guarda un po', la cosa principale era quella comunque da verificare stazionaria, perché quando assorbe un bel sta erogando, ma non sta, il finale sta lavorando, ma sta soffrendo e scalda la paura, ritorna in temperatura, rientro delle onde radio, il ROS scalda i finali da paura sino a danneggiarli. Ma se stazionari non ne hai, questa è già una buona cosa. Adesso va a capire che cosa potrebbe essere. E vabbè. E Gianni, cosa dirti? Il prezzo è irrisorio, è proprio niente, perché io ad esempio ricordo di averla pagata tipo forse sui 400 euro, ma dagli Stati Uniti questa l'avevo acquistata. E la radio è bella, è perfetta, è garantita, era garantita che funzionasse e così fu, devo dire. Perché il discorso è sempre lo stesso, poi arrivano, c'è un problema, quello non funziona, quell'altro neanche, non voglio seccature, tra virgolette, non ho né la voglia, il tempo e né le competenze per poterci poi mettere le mani, non più di tanto, tra l'altro non ho neanche mai avuto particolare passione e dedizione per lavorare all'interno, se non che i piccoli lavori di interventi fattibili, espansioni di gamma o interruzioni di una pirinatura per poter attivare un'estensione di gamma, aumentare la potenza, fare quelle quattro cose che dove non richiede granché di apparecchiature, se non che avere un po' di wattmetro o un tether o e niente di più. E va bene, stavo guardando perché mi hai ricordato del console. Io uno dei pochi esemplari che sono stati prodotti al mondo di un modello che si chiama Super Console, e fu uno dei pochi prototipi che avevano fatto con i primi sistemi di scansione delle memorie. Pensa un po', è un canalizzato 23 canali con la rotella tipo quella che c'è qua nella console 2, ma sul lato destro è un mobile grande, tipo il Trinidad, più grande, è un po' più grande del Trinidad, c'ha una serie di pulsanti dove potevi programmare una primordiale scansione delle memorie, una cosa veramente unica che avevo acquistato in occasione di una dismissione di una sorta di piccolo museo delle apparecchiature CB, e ho riuscito a accaparrare questo, non mi ricordo che cosa avevo preso, perché poi tutte le apparecchiature furono vendute in un batter d'occhio. Buonasera, ciao Gianni, ciao Marco, adesso Marco stiamo parlando ovviamente della radio che domani dovrà lasciare in eredità a Tino Muscolo, comunque. Ciao Marco, riprendi, buonasera. Sì, guarda, ciao, buonasera, ma ho premuto il PTT con la mano sinistra perché la destra, devo dire che in questo momento ce l'ho impegnata. Ciao Marco, ciao, salutone, tanti auguri a tutti e due, entrambi. Marco, hai delle leggere scariche quando fate? Sono entrato per avvisarti perché ogni tanto fai tipo che ci sia un falso contatto e poi magari mi ascolto, che non so se Gianni se ne è accorto o meno. Sì. No, ciao Gianni, Tino, da questa parte, Tino Muscolo. Intendevo dire a Marco che ogni tanto sento che ha qualche leggera scarica, credo che sia qualche falso contatto, non so, Marco, riprendi. Sì, roba vecchia, poi quando uno ha mangiato tanto in questi giorni, eccetera, roba vecchia, ci sta ogni tanto una scarica. Vedi, questo passaggio è andato a buon fine. Ciao Gianni, ciao, arrivo così perché sono piccolino io, basso e nero. Faccio un po' di candeggina. Non può perché ha una mano impegnata per causa mia. Ma l'altra già ce l'ho libera. Sì Gianni, bisognerebbe dare una spruzzatina, ma devo dire che non ne ho neanche qua a portata di mano, non vedo niente di tutto ciò. Bisognerà che lo prenda e gliene dia un po', un giro un po' qua le varie manopole. Sicuramente il click clack è più che dalla radio e dal microfono, ovviamente queste rimangono ferme per alle volte per mesi, mesi e mesi, anzi è già un miracolo che funzionano. Fossero state radio recenti, dopo breve tempo sarebbero state da buttare nel cassonetto, invece grazie a Dio queste hanno 40 anni, 50 anni e continuano a funzionare perché i componenti sono come si faceva una volta, e non è una classica frase, ma è proprio così, perché oggi oramai i componenti, poi quando gli rimane in assistenza, originale della casa madre, ti dicono no, e questo ormai c'ha già un po' di anni, non lo ripariamo più, non ne vale la pena, si compri il modello nuovo, ma è fatto un brodo, è così, va bene, allora grazie degli auguri, auguri a voi tutti naturalmente e alle vostre famiglie, sentiamo se Claudio è riuscito a individuare dove ho trovato il capo del vicino che gli sta succhiando la corrente dall'alimentatore, l'hai trovato qua, prendi le cesuglie, guarda che non sia dalla finestra, niente, nulla. Quando poi ti prende un problema così, finché non riesci a risolverlo, non lo molli. Vabbè, Tino, come segnale, come arrivo lì dalle parti tue? Marco, guarda, più che bene, 9.30, anche io ho pensato che era qualche, come detto Gianni, qualche difettuccio del mic, più che altro, spruzzare un pochino di quel pulitore per contatti, perché l'ha fatto anche a me, inoltre a radio e poi si è rimesso a posto. 9.30, radio 5, perfetta, pulita, va benissimo Marco. Volevo fare una prova, perché qua io vedo che qua si può, non so adesso, vabbè. Del potenziometro del preamplificatore, magari mi dici un po' che cosa è successo, l'ho aumentata di poco più che di un'attacca, dai. Allora, da parte mia si è scomparso per qualche secondo, poi è dato delle scariche e poi è ripreso. Sicuramente c'è qualche cosa da pulire anche lì, o provo a muoverlo destra e sinistra per magari togliere un pochino di ossido che si è creato, credo. Provo a rifare il passaggio e ti do conferma. Guarda un po' adesso se sì, mentre hai parlato tu, io ho fatto un po' girare il potenziometro avanti e indietro, vediamo un po' allo strumento, vedo che sta funzionando regolarmente, ma non ho idea se ha aumentato un pochino oppure no come livello di preapplificazione. No, secondo me ha aumentato anche qualcosina, qualche tacca in più, non tiene presente che io ho i LED, quindi una tacca in più di segnale. Ah, ok, benissimo, vabbè, lasciamo così e continuiamo a fare viaggiare questo coso. È bellissimo che quando va in trasmissione c'è la luce che lampeggia a seconda dell'intonazione della voce e si illumina la scritta on the air, come si usava un tempo nelle emittenti radiofoniche. E allora con questa radiofonia qui dalle alture dall'uomo del monte l'antenna va, se non riprende Claudio, un attimo di bianco, Gianni, allora l'antenna a te. Gianni, che sei forse un pochino lontano là in quanto nella zona nostra siamo quasi tutti attaccati, di verificare un attimino il mio segnale con questa radio, poi ti faccio un passaggio con un'altra differente e mi dici se è cambiato qualche cosa. Adesso tieni presente questa modulazione, questa timbrica di radio, di voce, di segnale, di picchi di modulazione e quant'altro. Dai. Cambio radio e mi dici cosa succede. Gianni, a te il mic. Io qua invece ho dovuto cambiare occhiali perché se mi chiedete indicazioni sui rapporti bisogna che aumenti i venti, da vicino non riesco, anche se le indicazioni ovviamente sono così, quelle che possono essere di uno strumento di questo tipo. Vabbè, comunque, molto bene, guarda, adesso che la rivedo, la vedo anche meglio con questi occhiali, mi piace e che cosa dire, già, se te la dà quel prete è regalata, io manco il microfono che ho suo, ovviamente quando l'ho presa, sia con l'SB da tavola, e sia da tavola, sia il suo microfono originale con la sua staffettina installata. Il microfono ti ricorre quello classico dell'SBE che ha quella forma del PTT rosso con le orecchie sollevate, molto carino e in perfetto ordine stato. Va bene, vediamo un po' Tino che cosa ha combinato. Bene, no vabbè, mi è costato solo commutare l'antenna e basta, perché tanto ce l'ho sempre attivo. Questa è l'altra radio, Marco, è un HR5005, non è un grande radio professionale, però insomma credo che si dia da fare anche lì. Volevo sapere più che altro da Gianni se ha incrementato un pochino in più il segnale, in quanto è un po' spinta questa. Ecco, ok Gianni, a te il mic. Claudio non riprende, segnali, non vedevo bene lo strumento prima, comunque forte anche questa, modulazione un po' più granulosa rispetto all'altra, l'altra è un pochino più squillante, questa qui è un po' più impastata, come modulazione preferivo l'altra, indipendentemente dal segnale, ma l'altra, la modulazione per me, perlomeno all'ascolto qui con questa radio, la qualità, la timbrica che rilevavo con l'altra radio era più gradevole, un po' più squillante rispetto a questa che, ripeto, rimane un po' più impastata, tutto lì, però va bene, non ci sono problemi, radio funziona tutto alla grande. Bene, bene, vabbè, era giusto per questo del 60, quindi non c'è ombra di dubbio che secondo me questa qua è molto migliore come modulazione, in quanto l'altra è classici baracchini da battaglia, ecco, tra virgolette, aiutati un po' con qualche spintarella, e quindi vanno magari a compromettere anche la radio e niente, quindi va a rovinarsi un pochino. Questa sono i suoi originali e niente, non c'è che dire. Sì, ma ecco, il cavo non ci andate. Proprio tecniche di trasmissione, quindi lo sai, no? A coricare. Ci sono, è come che siano le 5 di pomeriggio per me, io a radio sono alle 3 del mattino, 2, 3, 4, se no che radio è? E ieri mi sono sentito alle 2 e mezza, alle 3 è incominciato il net dall'Indonesia. Cosa? Poi siamo in festa, siamo in carcere, meglio di così. Bene, bene. Aspetta un attimo, io provo, sono assolutamente avvicinato, non riesco a capire, niente da fare, ho deciso che sono, ma c'è qualcosa che non va qua, 20, 16, 17, 18, un paio di assorbimento con 10 watt, è impossibile. Ma cosa stai utilizzando qua, il 140? 430 adesso. Perché ti ho sentito stasera, però in quel RX stavo facendo una cosa al computer, diciamo che spinge bene. Tutte e tre spingono bene, ne ho due di 140 e 430. 440 abbiamo mandato in disarmo, ne ho le balle piene di fare riparazioni sul 440. La radio che non puoi tenere un mese spenta, accanto che ti si blocca lui il VC9 che va a cagare. Sono tornato alla vecchia gloria, 440, cioè 140 e 430. Però 430 c'è un assorbimento allucinante, quindi devo vedere cosa cacchio è. Continuate voi, già sono qua in ascolto io. Adesso faccio un passaggio da così fino, guarda lo strumento, a così, di quanto sono calato? Allora, mi hai trovato mezzo distratto, ma ti ho visto, poc'anzi ti ho detto che eri più di 9.30 al secondo passaggio che hai fatto, adesso sei 9.10. Ho capito, va bene. Gianni, da te invece come cos'è successo? Di quanto sono crollato? No, scusa. Qua fai 9.20, 9.30 lo stesso. No, scusami Marco, 9.20, volevo dire 9.10. No. Allora, 9.20 poi fai 9.35. Si sente la differenza, eh? Si sente quando inserisci il 747, questo è quello dell'Italia, pensa con tutti i soldi che ci sono dentro quanto viaggia, è un casino. Va bene, cosa vuoi, sono apparecchiature che hanno i loro anni e succede così, si acciaccano e si impallano, si bloccano, si bisogna, tra l'altro poi come detto prima, il problema è che i tecnici non ne riparano più, non vogliono più riparare, non hanno, anche perché quanto ti dovrebbero chiedere? Per fare interventi così ti dovrebbe chiedere 400-500 euro, la radio ne vale 400 se riesci a venderla bene, perciò che non ha nessun significato ripararla. E prendo 50 euro per, in un'officina meccanica per smontarti una ruota, fare due fesserie, un tecnico in un laboratorio quanto ti deve chiedere per fare un intervento di assistenza. E allora preferiscono dirti così, quando chiami, c'ho questa no guardi non la ripariamo neanche, non ce la mandi, anche se è la casa madre. E così, sfortunatamente questa tecnologia e soprattutto questo atteggiamento tendente al consumismo porta a non rimettere a posto le cose belle, anche se siamo affezionati e ci piacerebbe invece rivederle sempre in funzione, ma costringersi a comprare i prodotti nuovi. Ma devo dire che se parliamo ad esempio di CD, di apparati CD belli, belli così come quelli che abbiamo degli anni passati, ditemi quali sono, non ce ne sono, ancora si va a caccia di questi Saturn Echo e compagnia cantante, perché cosa c'è? Ci sono solo questi veicolari, con l'effetto dell'elicottero che è precipitato, solo veicolari, ma begli apparati base non ce ne sono più, o non è così Gianni? Contrapposto alla zona delle apparecchiature radioamatoriali, cioè questa zona dedicata agli apparati CD è in uso, nel senso che quelli che sto facendo funzionare, poi c'è un'altra parte, un'altra scrivania dove invece ci sono quelli che sono lì in letargo. E cerco nei limiti del tempo, della voglia di spostarli e di piano piano insomma farli funzionare un po' uno, un po' l'altro, ecco, oggi ma abbiamo sempre acceso questi giorni scorsi il Lafayette, il Telstar, l'SSB 140 che è uno dei miei prediletti, poi c'è questo Realistic che è lo stesso, la fermo da un po' e vedo che funziona bene, che è il Turner più 3B. E poi ho messo in funzione questo console 2, questo SB e console 2 che mi piace particolarmente e va molto bene. Dai, è così, bisogna, come dicevamo Gianni, non ci sono più quelle belle radio, hai ricordato dei periodi del passato molto belli. Io ho avuto la prima radiolina, il primo portatilino regalato a Natale che praticamente era 67, forse il 68, forse il 68, se non ricordo male. Comunque, 72 conoscevo Panther personalmente, sono andato tantissime volte lì in negozio da lui, poveretto che è venuto a mancare tanti anni fa, e così come avevo vicino di casa e andavo spessissimo da lui a curiosare, c'era il laboratorio di Beta Verde, no? Ecco, se sai dove era Beta Verde, io abitavo praticamente a circa 70 metri in salita, avevi prima via Bucari, poi avevi via Carso. Io abitavo via Carso, nel primo palazzo che c'era all'ingresso di via Carso, lì avevo la prima antenna, avevo una Grand Plane, e spessissimo andavo lì da Beta Verde a vedere le radio che aveva, che riparava, dei ricordi veramente particolari, molto molto molto molto belli. E devo dire che ancora prima di avere l'antenna e il baracchino che mio padre mi comprasse, il Catalina 23, andavo a trasmettere a casa di un amico che aveva in un cortile in viale Mameli, in un cortiletto aveva questa radio CB con un'antenna così, che precaria, sistemata lì nella parte interna per non vedersi da in esterno, perché c'era paura questa cosa dei controlli eccetera eccetera, e qualche pomeriggio con la scusa di andare a studiare eccetera andavo da lui e accendevamo questa radio e lì a chiacchierare, a fare eccetera eccetera, e vabbè. Non mi ricordo che cosa fosse, ma mi pare fosse un sei canali, forse un Pony sei canali o qualcosa del genere. Sono tornato, eh. Sì, mi è arrivato Claudio. Claudio, prenditi l'antenna. Io, scusa che adesso sono con la 140, 430, lo spento, poi domani vero, perché può darsi pure, sto pensando Marco che sia la ventola, che non sento qualcosa dentro, ma non è detto che stia girando, capito? Quindi può darsi che nel momento in cui deve mettersi in funzione, non si mette in funzione, mi scalda il dissipatore, quindi automaticamente sale anche l'amperaggio, perché questo è apposta, facciamo forse l'alimentatore invece è 10 watt, sì, 10 watt modulati 30, quasi 40, e praticamente l'assorbimento è di neanche 10 ampere, quindi va bene. Allora non l'alimentatore, da domani bisogna dare uno sguardo a questa radio. Mi sono deciso dopo tanto tempo, ho commuto da una scrivania all'altra, praticamente c'ho il commutatore nella base principale dove ci sono queste radio, le HF così chiamate, e per passare poi all'altra base dove ci sono tutti i vintage, tutti ce ne sono 9, compreso il DAC, e praticamente commuto da una scrivania all'altra e mi passo l'antenna là. Di là c'è l'altro commutatore che commuta tutte le radio senza stare a cambiare antenne, capito? Fatto un bel lavoro, tutto sotto traccia, non ci sono carri mezzi pieni, tutto canalizzato, tutto fatto un bel lavoro. Come naturalmente c'è benissimo la mia pignorità. Va bene, cambio per Tino allora. Ok, Tino, sì, questo è il 140, adesso vai. Sì, sì, bene, bene, va molto bene. No, io infatti sto aspettando il mic perché devo preparare una cosa a Gabriele, poi ne approfitto andare a nanna che stamane presto in battaglia, quindi qua a casa, e domani devo uscire presto per fare delle commissioni stesso. Sì, va bene Claudio, va bene, fai da 9.20 modulati anche 9.25, quasi 30, con qualche punta che tocca il 30, quindi tieni presente sempre che sai benissimo che ho i LED io, quindi un LED in più, un LED in meno, fa la differenza. Va bene, dai, vi saluto, vi, come si dice, vi rinnovo nuovamente gli auguri, nel caso non ci sentiamo più avanti, comunque spero di sì. Ciao Claudio, ciao Marco, ciao Gianni, diventerò ascoltoni, io rimango un attimino in Quirix e preparo queste due cose a Gabriele, che lui, sai, la cena sono le ragazze di oggi, comunque la cena allora che le viene, non ha un'ora prestabilita, quindi prima di andare a curicarmi qualcosina gliela preparo. Poi lancio il mic a Marco, dai, aspetto il finale e poi vado via. QSL Tino, benissimo, allora grazie del QSO, ciao Tino, buonanotte, ci sentiamo nei prossimi giorni, molto bene. Allora Gianni per i saluti. QSL, cosa volevo dirti Gianni? Poi guarda come sono i casi della vita, io mi ricordo che andavo lì alla GBC, no? Per comprare due lampadine, una fesseria, mi ricordo che c'era il titolare in camice bianco, non so, un omone alto, che tra l'altro era un ex carabiniere o qualcosa del genere, ma ogni volta mi metteva in difficoltà su da quanto la vuoi e così e colà, perché devi sapere che cosa ci devi fare, e io compravo una lampadina per fare delle fesserie, mi sembrava un fusibile, e così. E poi guarda come sono i casi della vita, sono diventato amico del figlio, che poi anche lui negli anni successivi, molto più grande di me, perché Michele mi pare adesso avrà intorno ai 70 anni, collaborava, andava lì, aiutava il padre, anche lui in camice bianco, no? Non so se ti ricordi la figura con i capelli bianchi, questo signore alto e grosso, io allora ragazzino metteva soggezione, te lo ricordi già? C'era una vendita bestiale, sì, era proprio così, si impallava, ma poi ti faceva le domande, era un personaggio che ricordi, così come adesso non mi viene in mente il nome di uno di quel periodo, ma adesso mi sono ricordato di Capitano, lì delle che aveva l'antenna cubica e cose varie, eccetera, che allora era proprio un sogno, di un altro CD che... Marco Michi, ti ricordi? Adesso non mi ricordo che nominativo avesse, c'era Marco Michi, ma ti parlo, forse è il periodo del 74, 73, 74, una cosa del genere, e adesso non mi viene in mente il nominativo, sentiamo Claudio se lo ricorda lui. No, l'ho conosciuto, l'ho frequentato lì, quando c'era quel negozio, eccetera, e tu considera che io dal 74, io sono entrato nel 74, proprio grazie a Ernesto Toccai, perché mio dall'82 mi sono trasferito a Sassari, abitavo via Montegrappa, quindi in baracchino non ne avevo, e nell'85 quando mi sono sposato ho montato l'antenna qua dove abito adesso, e quindi andavo spesso lì, mi pare che c'era Cao che lavorava lì, insomma andavo anch'io da Beccaverde moltissimo, facevo un sacco di riparazioni, andavo da Panzer, andavo un po' da tutti, poi in quegli anni mi sembra che abbiamo iniziato anche a conoscerci in vari eccetera, poi insomma nel 92 poi avevo preso la patente. Però Marco Michi me lo ricordo benissimo, ma non mi ricordo nominativo, ci ho anche parlato, però non mi ricordo nominativo Marco. EQSL, lui faceva parte dei grandi e parlava, cioè ovviamente ho parlato anche io tantissime volte, perché poi io ero, conoscevo a Ragno, che è a Casara, che abitava sopra l'Ariston, e conoscevo il fratello perché era fidanzato con mia cugina, perciò capitava nei pranzi in famiglia, allora si usava tanto questa cosa di riunirsi tutti i parenti, da 30, 40, 50 persone, pranzi e cene, cose del genere, e io appassionato di baracchino, lui lo vedevo come un mito per me, Tore Casada, che aveva già acquistato le cose importanti, i primi microfoni nascosti nel volante, interruttori nascosti, radio nascosta, imbullonata e nascosta non visibile, insomma c'erano tutte queste cose particolari, ma belle, insomma, che affascinanti, che era degli albori proprio della banda cittadina. Vediamo un po' Gianni se tu ti ricordi qualcosa in merito a queste persone. Certo che mi ricordo di Black Flyman con la sua mitica duetto Alfa Romeo su di seppia con il mollone, l'antenna americana della Hustler, certo che mi ricordo. Poi è diventato radioamatore, io ero radioamatore, sono diventato radioamatore nell'88 e mi pare che lui arrivò forse un 3-4 anni dopo, una cosa del genere, come Evolutio Zero. Poi non ha mai frequentato particolarmente, non si è mai fatto sentire particolarmente, se non che un pochino di volte così per parlare un po' di attività radio, packet, i primi percorsi dell'attività digitale, ma negli anni 90 questo, negli anni 90, 94, 95, però poi non ha mai frequentato, insomma, il circuito delle amicizie del mondo della radio qua della zona della Sardegna, del nord Sardegna. Mentre Marco Michi non mi ricordo, io frequentavo, ci trovavamo perché anche lui, e io ero amico dei figli di Vanacore, signor Mario, Michele, Alberto eccetera, e lui, che non mi ricordo per quale motivo è parente o comunque frequentava molto quell'ambito della famiglia, ci vedevamo e via lì lui a raccontare i discorsi della banda cittadina, dei collegamenti, di ex e queste cose qua, e io lì con la baba alla bocca a ascoltare e vedere radio installate nella sua macchina eccetera, io ero ragazzino ancora con la bicicletta, invece un po' invece sentire lui già con discorsi di radio e cose varie sono dei momenti di grande fascino dell'etere, della radio, dell'attività della banda CD, diciamo, dai, la tecla. Sì, ne abbiamo fatto di belle battaglie, belle lotte, belle cose belle e cose brutte un po' tutti. Io ero come si dice, uno più bello è dire poco, e vabbè, io da quando Ciao, Johnny Capri, noi ci KQSL. Ciao Cla, buonanotte, sì, ci sentiamo nei prossimi giorni io. Allora, tutti i giorni, 6-8 ore li sto facendo in radio, facendo con le radio accese, un po' sempre qualche lavorettino, qualche cosa, ma sempre qua. Ci sentiamo volentieri nelle prossime giornate. Buonanotte. OK, cosa ti volevo dire Gianni? E poi andavo sempre alla caccia con la testa lì su, guardando le antenne, per capire le antenne che cosa fare, che cosa pensare, perché poi dalla prima Grand Play sono passato alla prima antenna, una sorta di Super Rangibus che vendeva proprio lì il negozio di via Principessa Maria, che però non era la Super Rangibus con la base azzurra, ma era similare, non mi ricordo di che azienda fosse, e avevo piazzato quella, e dopodiché eravamo andati via da via Caccia e mi ero trasferito qua, dove abito ancora oggi, vabbè, la casa è cambiata eccetera, ma con la famiglia ci eravamo trasferiti qua a Firighetto, dove era campagna, allora era strada bianca e campagna e via con le antenne, non ti dico, meno male, un po' mio padre mi lasciava fare, perciò già avevo montato la direttiva in via Carso, la 320, però fissa senza rotore, poi invece ovviamente sono venuto qua e qua ho veramente cominciato a sfasciare, a piazzare antenne di tutti i tipi e in maniera anche esagerata, con una quantità di discese pazzesca, cioè avere 4, 5, 6 antenne per banda con una quantità di cavi, di connettori pazzesca, e grazie a Dio ancora oggi insomma continuo con questo percorso, un po' meno perché c'ho, ovviamente diventando già grande, fra virgolette quasi anziano, non ho più tanta voglia di arrampicarmi come un tempo, ma ancora continuo a arrampicarmi, anche recentemente ero lì a fare lavori, adesso sono un po' intrippato con questa cosa